Sicuramente è una proposta in qualche modo aberrante se pensiamo sul piano sociale, cioè già di per sé avevamo discusso, no, sui limiti, ovviamente il reddito di cittadinanza così come proposto al Movimento 5 Stelle, il fatto di pensare che gente disoccupata e che vive sotto soglia di povertà per poter campare deve indebitarsi con lo Stato, quindi poi restituire, quindi avere un debito e espiare la colpa, se vogliamo, anche della povertà per i prossimi 20 anni, ammesso in un concetto che ci riesca, vediamo che non ha nessuna intenzione redistributiva e soprattutto nessuna in qualche modo responsabilità da parte dello Stato di redistribuire risorse proprio per eliminare lo stato di povertà. In questo caso, diciamo, se vogliamo, è la versione, no, più spregevole di quello che è stato già fatto rispetto all'anticipo pensionistico con l'indebitamento attraverso il sistema dell'APE. Ecco, c'è, come dire, forse anche un elemento, come dire, culturale in tutto questo, no? Cioè, già la forma del prestito, ma anche l'obbligo di accettare il primo lavoro che viene proposto sta come a dire, insomma, voi non avete voglia di lavorare, siete poveri per colpa vostra, o state a queste regole o cavoli vostri. Sì, esatto, no? Espiare la colpa della disoccupazione, che ovviamente è volontaria, perché sappiamo tutti, no, che abbiamo un popolo di lazzaroni, specie quelli del sud, dove i tassi di povertà sono più alti, no? E questa è un po' la lettura che ne fa la Lega, e dall'altro, appunto, nessuno vi deve niente, anzi, quindi la questione proprio del prestito, quindi di entrare a debito, che poi è un'altra colpa da espiare in seguito, ma soprattutto l'obbligo poi di dover accettare qualsiasi cosa. Cioè, è anche controproducente dal punto di vista economico, perché se sono indebitato allora dovrei accettare soltanto quei lavori che mi permettono effettivamente di avere un reddito per uscire dalla povertà, ma noi sappiamo che oggi appunto il 13% dei già occupati italiani sono dei working poor, cioè lavorano ma guadagnano meno che la soglia di povertà. In che modo poi queste persone, se queste appunto non c'è un intervento in base a quanto possono minimamente guadagnare, in che modo poi potrebbero restituire un debito? Sì, c'è anche questo paradosso che effettivamente bisogna tenere in considerazione, forse perché la Lega non ha ben presente come funziona il mercato del lavoro e a quanto sono gli stipendi? No, secondo me, cioè, che non lo sappia mi sembra paradossale, perché appunto anche dei responsabili economie ci sono delle informazioni di pubblico dominio. Il problema però è un altro, è proprio evitare che queste forme di redistribuzione, se vogliamo, e di welfare vengano ammesse. Del resto la Lega era quella che proponeva come grande misura del welfare e quindi, no, della fiscalità in Italia, la flat tax, cioè quella cosa per cui sei povero e continuerà a essere povero, e non ammettiamo neanche la redistribuzione in secondo livello tramite tassazione progressiva, per cui effettivamente i ricchi dovrebbero pagare un po' di più proprio per finanziare, se vogliamo, no, una pace sociale che abbia delle condizioni materiali minime e dignitose. Quindi non mi stupisce, mi sembra che non è che non lo sappiano, è che proprio la volontà politica è quella di resistere alla povertà, ed è bene che resista alla povertà, perché così avremo dei lavoratori che sono obbligati a quel punto ad accettare qualsiasi cosa a condizioni di mercato che sono sempre più ricche e anche vessatori, se vogliamo, della dignità dei lavoratori. Ecco, questa retorica anti-assistenzialista, perché così viene venduta, avrà un impatto anche sul welfare già malandato del nostro paese? Ah, dipende dal governo, no? Perché appunto se la Lega riesce a imporre quella che è stata l'unica sua misura in ambito economico, che è proprio la flat tax, sicuramente c'è una ripercussione, perché meno gettito significa meno finanziamento, soprattutto se si vuole rimanere dentro i vincoli europei, e a me sono concesso, anche se dovessero sforare i vincoli, a pagare, no, maggior welfare o lo stesso livello di welfare saranno proprio i lavoratori che continuano invece a pagare le tasse. La cosa che non si dice mai in termini di assistenzialismo, e che la Lega non dice mai, perché poi ovviamente, no, fa l'occhiolino a tutto un settore imprenditoriale, diciamo un tessuto produttivo abbastanza assistito dallo Stato in questi anni, e quanti miliardi noi abbiamo versato nelle casse dei conti delle aziende per permettergli di fatto di non creare nuova occupazione ma neanche nuovi investimenti. Quindi effettivamente dovremmo in qualche modo, no, ritirare fuori il tema dell'assistenzialismo per chi, verso chi è andato questo assistenzialismo negli ultimi anni, perché sicuramente ai lavoratori, ai poveri e ai disoccupati no. Stai facendo riferimento agli sgravi e alle aziende in un certo senso? Certo, sgravi le aziende, il taglio sulle tasse dell'IRES per esempio, l'abbattimento dell'IRAP in determinati anni. Noi sappiamo che appunto lo Stato ha in qualche modo dato risorse alle aziende, molte più risorse alle aziende rispetto a quelle che ha dato invece in termini di welfare per tutti i cittadini. Se pensiamo anche al taglio della spesa sociale in generale in Italia, il dato è abbastanza lampante. Quella è una scelta politica di dove destinare di fatto le risorse pubbliche, che poi ricordiamo sono risorse pagate per lo più dai lavoratori.